Hansel y Gretel. Davanti a un gran bosco abitava un povero taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini. Il maschietto si chiamava Hansel e la bambina Gretel. Egli aveva poco da mettere sotto i denti e quando ci fu nel paese una grande carestia non poteva neanche più procurarsi il pane tutti i giorni. Eh sì. Una sera, che i pensieri non gli davano requie ed egli si voltolava inquieto nel letto, disse sospirando alla moglie: «Moglie, moglie, che ne sarà di noi? Che potremmo nutrire? Come faremmo a nutrire i nostri poveri bambini che non abbiamo più nulla neanche per noi, moglie?» «Senti, marito mio, domattina all'alba li condurremo nel più folto della foresta. Perché? Accendiamo loro un fuoco e diamo a ciascuno di loro un pezzettino di pane. E poi? Poi andiamo al lavoro e li lasciamo soli. No. Sì, i bambini non ritrovano più la strada per tornare a casa e noi siamo sbarazzati. Ma no, moglie mia, io questo non lo posso fare. Ma come potrei avere a cuore di lasciare i miei figli soli nel bosco? Che le bestie feroci verrebbero subito a sbranarli, non lo posso fare. Pazzo che non sei altro, allora dobbiamo morire di fame tutti e quattro, eh? Non ti resta che piallare le assi per le bare. E non lo lasciò in pace finché il povero uomo acconsentì. Ma quei poveri bambini mi fanno tanta pietà, disse. Per la fame, neppure i due bimbi potevano dormire e avevano udito quello che la matrigna diceva al padre. Gretel piangeva amaramente e disse ad Hansel: Adesso per noi è finita! Shh, zitta Gretel, zitta, non affannarti, ci penserò io, non aver paura. E quando i vecchi si furono addormentati, si alzò, si mise la giacchettina, aprì l'uscio da basso e sgattaiolò fuori. Splendeva chiara la luna e i sassolini bianchi davanti alla casa rilucevano come monete nuove di zecca. Hansel si chinò e ne ficcò nella taschina della giacca quanti poté farne entrare. Poi tornò dentro e disse a Gretel: «Sta di buon animo, cara sorellina, e dormi pure tranquilla, che Dio non ci abbandonerà. Mi prometti che smetti di piangere?» «Smetti? Non aver paura!» E si rimisero a letto. «Buonanotte, sorellina!» «Buonanotte!» «Brava così, buonanotte!» Allo spuntar del giorno, ancor prima che sorgesse il sole, la donna andò a svegliare i due bambini. «Alzatevi, poltroni! Andiamo nel bosco a far legna, eh?» Poi diede a ciascuno un pezzetto di pane e disse: «Eccovi qualcosa per mezzogiorno, ma non mangiatelo prima che non avrete nient'altro!» Gretel mise il pane sotto il grembiule perché Hansel aveva in tasca le pietre. Poi si incamminarono tutti e quattro verso il bosco. Quando ebbero fatto un pezzetto di strada, Hansel si fermò e si volse a guardare la casa. E così fece più e più volte. E il padre disse: Hansel, ma cosa stai a guardare? E perché rimani sempre indietro? Su, muoviti! Babbo, guarda il mio gattino bianco che è sul tetto e vuol dirmi addio! Sciocco, non è il tuo gatto, è il primo sole che brillerà sul comignolo. Hansel non aveva guardato il gattino, aveva buttato ogni volta sulla strada uno dei sassolini lucidi che aveva in tasca. Arrivati in mezzo al bosco, il padre disse: «Su bambini, adesso raccogliete un po' di legna che voglio accendere un fuoco, così in modo che non geliate, eh?» Hansel e Gretel raccolsero rami secchi e ne fecero un bel mucchietto. I rami furono accesi e quando si levò alta la fiamma la donna disse: «Adesso mettetevi accanto al fuoco, bambini, e riposatevi. Noi andiamo a spaccare la legna nel bosco. Quando abbiamo finito, torniamo a prendervi. Ciao!» Hansel e Gretel rimasero accanto al fuoco e a mezzogiorno mangiarono il loro pezzetto di pane. E udendo i colpi d'accetta, credevano che il babbo fosse vicino. Ma non era l'accetta, era un ramo che il babbo aveva legato ad un albero secco e che il vento sbatteva di qua e di là. Erano là seduti da un pezzo e alla fine i loro occhi si chiusero per la stanchezza ed essi si addormentarono profondamente. Quando si svegliarono era già notte fonda e Gretel si mise a piangere e disse: come faremo a uscire dal bosco? Ma Hansel la consolò: shh, aspetta soltanto un poco finché sorga la luna e poi troveremo bene la strada. Ti devi fidare, dobbiamo aspettare che sorga la luna. Non piangere, brava. E quando sorse la luna piena, prese per mano la sua sorellina e seguirono le pietruzze, che brillavano come monete nuove di zecca e mostravano loro la via. Camminarono tutta la notte e allo spuntar del giorno arrivarono alla casa paterna, bussarono alla porta e quando la donna aprì e vide che erano Hansel e Gretel disse: cattivi! Perché avete dormito tanto nel bosco, eh? Credevamo che non voleste più tornare. Ma il padre si rallegrò, tanto l'aveva accorato lasciarli così soli. Non passò molto tempo e la miseria tornò ad invadere la casa. Una notte i bambini udirono la matrigna dire al padre, mentre era a letto: Hansel si è di nuovo mangiato tutto. C'è ancora una mezza pagnotta, poi è finita. I bambini devono andarsene. Ma no, moglie! Sì, li condurremo più addentro nel bosco, perché non ritrovino la strada. Per noi non c'è altro scampo, marito mio. L'uomo si sentì stringere il cuore e pensò: però sarebbe meglio forse che tu dividessi il tuo ultimo boccone con i tuoi bambini. Ma che dicesse, la donna non gli dava retta e lo sgridava e lo rimproverava. Chi dice A deve dire anche B. E siccome aveva ceduto la prima volta, il buon uomo dovette cedere anche la seconda. Ma i bambini erano ancora svegli e avevano udito quei discorsi. Quando i vecchi dormirono, Hansel si alzò di nuovo per andare come l'altra volta a raccogliere i sassolini. Ma la donna aveva chiuso la porta e Hansel non poté uscire. Ma consolò la sua sorellina dicendo: Gretel, Gretel, non piangere, dormi, non devi piangere, non aver paura, dormi pure tranquilla, che il buon Dio ci aiuterà e faremo come l'altra volta con i sassolini. Non piangere, dormi. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a te. Sul far del giorno la donna fece alzare i bambini dal letto. Ebbero il loro pezzetto di pane, ma era ancora più piccolo dell'altra volta. Sulla strada del bosco Hansel lo sbriciolò in tasca e spesso si fermava e buttava una briciola in terra. Hansel, Hansel, ma si può sapere perché ti fermi sempre che ti guardi attorno? Cammina, su! E babbo, guarda il piccioncino che è sul tetto e vuol dirmi addio! Sciocco! Non è il tuo piccione, è il primo sole che brilla sul comignolo. Ma Hansel, un po' per volta, gettò tutte le briciole per via. La donna condusse i bambini ancor più addentro nel bosco, dove non erano mai stati in vita loro. Accesero di nuovo un gran fuoco e la matrigna disse: restate qui, bambini, eh? Se siete stanchi, potete anche dormire un po'. Noi andiamo nel bosco a tagliare la legna come l'altra volta e stasera, quando abbiamo finito, vi veniamo a prendere. A mezzogiorno Gretel divise il pane con Hansel, che l'aveva sparso per via. Poi si addormentarono e passò la sera. Ma nessuno venne dai poveri bambini. Nessuno. Nessuno. Si svegliarono solo a notte fonda e Hansel consolò la sorellina dicendo: aspetta Gretel, aspetta che sorga la luna e allora vedremo le briciole di pane che ho sparso e ci mostreranno la via di casa, come con i sassolini. Va bene? No, no, no, no, no. Shh. E quando sorse la luna, si alzarono, ma non trovarono più neanche una briciola. Le avevano beccate i mille e mille uccellini che volano per campi e boschi. E Hansel disse a Gretel: non ti preoccupare, troveremo la strada lo stesso. Ma non la trovarono. E camminarono tutta la notte, ancora un giorno, da mane a sera, ma non uscirono dal bosco. E avevano tanta fame perché avevano solo un po' di bacche trovate per terra. ed erano così stanchi che le gambe non li reggevano più. Si sdraiarono sotto un albero e si addormentarono. Era già la terza mattina da quando avevano lasciato la casa del babbo. Ricominciarono a camminare, ma si addentravano sempre più nel bosco. E se non trovavano presto aiuto, sarebbero morti di fame. A mezzogiorno, stanchi e affamati, passando sotto un albero, si fecero distrarre dal battibecco tra un pettirosso molto giovane e un vecchio merlo. Senti, merlo, te ne devi andare, perché mi stai sempre intorno, questa cosa mi dà molto fastidio. No, scusami tanto, pettirosso, abbi pazienza, è tu il cielo? No, voglio sapere se è tu il cielo, perché io non posso volare dove mi pare, e poi a me del tuo nido, non mi interessa niente. E invece no, intorno al mio nido ci stai sempre, io sto cercando di fare una cosa importante, quindi per favore... Come sei noioso! Mamma! In realtà... Il merlo teneva d'occhio da tempo il bellissimo nido del pettirosso e non vedeva l'ora che il giovane pettirosso se ne andasse all'avventura. Ma il pettirosso non aveva mai lasciato il suo nido perché aveva molta paura di volare. Non è vero? Non è vero! Quel giorno però si era finalmente detto: oggi mi butto. E oggi mi butto. Non ci credo! Ecco, l'ho detto e lo faccio. È finito il tempo in cui fingo un collasso. Stavolta non scivolo, no, guardo un punto, lo fisso e poi parto. Sì, guarda, già sento brividi alla nuca, aria di libertà. Questa l'ho già sentita. Il nido è un po' in alto, un po' troppo. Non so se son pronto, magari son scemo. Ancora non so procurarmi del cibo. Un verme del bolo, no, niente da solo. È che si sta bene qua. Questa è la verità. Guarda che rischi un doppio reato, disse sputandomi un merlo geloso. Tu che sei giovane hai poco coraggio, degno di un bruco letargico a maggio. E volatene via e vatti a fare una vita, no? Beh, se sapessi dove andare una volta partito, mi sapresti lontano. Vorrei non tornare qui a vederti godere del mio amato nido. Ma che ti credi che non ti ho capito? Vatti a fa un giro. Scusami, giovane pettirosso, ma io vorrei sapere una cosa. Tu ti credi che io ti voglio sfrattare? Ma che me ne frega a me del tuo nido? Ce n'ho 103 di nidi. Io voglio solo capire che cosa vuoi fare della tua vita. Perché mi fa tristezza, questi giovani mi fanno tristezza, questi giovani d'oggi pavidi. Che vuoi fare, eh? Solo quello voglio fare. Voglio sapere solo quello. Però la risposta, la verità, che io già la so, ed è racchiusa in una semplice parolina che ti fa male, ma che io ti devo dire. E vuoi sapere qual è quella parolina? Vuoi sapere perché tu non voli? Perché sei un vigliacco. Cosa? Vigliacco. Merlo, tu provochi perché lo sai che c'è. Studiare, poi qualcosa saprai fare. Mater dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei. Scusa, brutto merlo, ma se capita che io muoio, cioè che io esco dal nido, mi spiaccico, non riesco ad aprire bene le ali, mi spiaccico contro il tronco, mi accascio e muoio. Sei pavido e noioso. Vuoi che ti spiego che cos'è questo? Te lo spiego subito. Questa è pigrizia maligna, è una specie di tigna di voi vecchi dentro. Io ero un portento, non dico di cervello perché non lo posso dire, ma io avevo una forza, una voglia di volare sul mondo. Ma proprio noi che possiamo? Ma pensa se tu fossi un essere umano. Ma tu vivi in una condizione privilegiata, sei un pettirosso. Non sei una casalinga che abita all'ottavo piano, che avrebbe paura normalmente di buttarsi di sotto. Hai le ali, le vuoi usare? Vuoi diventare la tua natura? Hai le ali, devi volare. Ma io lo so benissimo, e non ridere, lo so benissimo perché non ti butti, perché è sempre la stessa ragione, perché tu sei un piccolo, giovane, pettirosso, vigliacco. Merlo, tu provochi perché lo sai che c'è. Oddio, vola! Vola! Finalmente posso sedere tranquillo in quel meraviglioso nido e starmene tranquillo in mezzo ai rami! Hansel e Gretel, rapiti dal coraggio del pettirosso, decisero di seguirlo, finché giunsero ad una piccola casa e il pettirosso si posò sul tetto. Quando furono ben vicini, videro che la casina era fatta di pane e coperta di focaccia, ma le finestre erano di zucchero trasparente. All'opera, disse Hansel, faremo un ottimo pranzo. Io mi mangerò un bellissimo pezzettino di tetto, e tu, Gretel, sai cosa ti puoi mangiare? Un pezzettino di finestra, è dolce. Allora Hansel si rizzò, stese la mano in alto e staccò un pezzo di tetto per sentire che gusto aveva. E Gretel s'accostò ai vetri e cominciò a spilluzzicarli. Allora una voce sottile gridò dall'interno: Rodi, Rodi, morsicchia! La casina? Chi è che mi rosicchia? Rodi, che ti morsicchia! La mia casina? Chi è che là fuori mi rosicchia? E i bambini risposero: ma veramente no, è il pettirosso! Oh, è stato Merlo! Sì, è il vento! È il vento! Ma hai assaggiato questo stipite? Io non ho mai mangiato delle maniglie così buone in vita mia! Assaggia gli stipiti! E continuarono a mangiare, senza lasciarsi confondere dalla vocina che veniva da dentro la casa. Hansel, a cui il tetto piaceva molto, ne staccò un grosso pezzo. E Gretel tirò fuori tutto un vetro rotondo, si sedette in terra e se lo succhiò beatamente. Ma ad un tratto la porta si aprì e venne fuori piano una vecchia decrepita che si appoggiava a una gruccia. Hansel e Gretel si spaventarono tanto che lasciarono cadere quel che avevano in mano. Ma la vecchia dondolò la testa e disse: Ah, cari bambini, ma chi vi ha portato qui? Entrate, rimanete con me che non vi succederà niente di male, eh? Li prese entrambi per mano e li condusse nella sua casetta. Fu loro servita una buona cena, veramente una buona cena: latte, frittelle, mele, noci. Poi furono preparati due bei lettini bianchi e Hansel e Gretel si coricarono e credevano di essere in paradiso. Che meraviglia, sorellina! Hai ancora fame? Non ci credo. No, un po' di mal di pancia. Vabbè, adesso dormiamo, eh? Buonanotte, sì. Buonanotte, sorellina mia. Sto sognando tutti i zuccheri filati. Io sogno delle maniglie. Buonanotte. Buonanotte. Che carina quella vecchina. Sì. La vecchia fingeva di essere benigna, ma era una strega cattiva che insidiava i bambini e aveva costruito la casetta di pane soltanto per attirarli. Quando un bambino cadeva nelle sue mani, lo uccideva, lo cucinava e se lo mangiava, e per lei quello era giorno di festa. Le streghe hanno gli occhi rossi e la vista corta, ma hanno un fiuto finissimo come gli animali, e sentono l'avvicinarsi di creature umane, e quando si avvicinarono Hansel e Gretel, ella rise malignamente e disse beffarda: Sono in mio potere, non mi scappano più. Di buon mattino, prima che i bambini fossero svegli, si alzò e quando li vide riposare così dolcemente con le gote rosse e tonde, mormorò fra sé: Diventerà un buon boccone. Afferrò Hansel con la mano rinsecchita, lo portò in una stia e lo rinchiuse dietro un'inferriata e per quanto egli gridasse, non gli giovò. Poi essa andò da Gretel, la svegliò con uno scossone e gridò: «Alzati, poltrona! Porta l'acqua e cucina qualcosa di buono per tuo fratello che è là nella stia e deve ingrassare. Quando è grasso, voglio mangiarmelo!» Gretel si mise a piangere amaramente, ma fu tutto inutile. Dovette fare quel che voleva la cattiva strega. Ora al povero Hansel cucinavano i cibi più squisiti, ma Gretel non riceveva che gusci di gambero. Ogni mattina la vecchia si trascinava fino alla stia e gridava: «Hansel, sporgi le dita che senta se presto sarai grasso!» Ma egli sporgeva un ossicino e la vecchia, che aveva gli occhi torbidi, non poteva vederlo e credeva fossero le dita di Hansel e si stupiva che non volesse proprio ingrassare. Dopo 4 settimane, visto che Hansel era sempre magro, perse la pazienza e non volle più aspettare. Su Gretel, porta l'acqua svelta, grasso o magro che sia, domani ammazzerò Hansel e lo cucinerò. Come pianse la povera sorellina quando dovette portar l'acqua e come le scorrevano le lacrime sulle guance. Buon Dio, aiutaci! Oh Dio, ci avessero divorato le bestie feroci nel bosco! Almeno adesso saremmo morti insieme! Rispagnati il piagnisteo! Non serve a nulla, brutta mocciosa schifosetta! Di buon mattino Gretel dovette uscire, appendere il paiolo con l'acqua e accendere il fuoco. Prima di tutto bisogna cuocere il pane. Ho già scaldato il forno e impastato per bene. Spinse fuori la povera Gretel fin presso il forno da cui già svampavano le fiamme. Piccoletta, senti, cacciati dentro e guarda se è ben caldo perché possiamo infornare il pane, va? E mentre Gretel era dentro, avrebbe chiuso il forno per farla arrostire e mangiarsi anche lei. Ma Gretel capì la sua intenzione e disse: Io non so come fare. Come faccio a entrarci? Stupida oca! L'apertura è abbastanza grande, guarda, potrei entrarci anch'io. Stupida. La vecchia strega arrancò fin là e sporse la testa nel forno. Allora Gretel, con un urtone, la spinse dentro, chiuse lo sportello di ferro e tirò il catenaccio. Aiuto, brutta che urla orribili gettò la strega! Ma Gretel corse via e la maledetta strega dovette miseramente bruciare! Gretel corse di filato da Hansel, aprì la stia e gridò: Hansel, siamo liberi! La vecchia strega è morta! Allora Hansel saltò fuori come un uccello quando gli aprono la gabbia e con che gioia si saltarono al collo, si baciarono e fecero capriole! E siccome non avevano più nulla da temere, entrarono nella casa della strega e dappertutto c'erano forzieri pieni di perle e di pietre preziose. «Sono ancora meglio dei sassolini, Gretel!» disse Hansel e mise in tasca tutto quel che poté entrarci. E Gretel disse: «Anch'io voglio portarne a casa un po'!» «E chi te lo impedisce? Prendili!» E si riempì il grembiolino. «Gretel, però adesso andiamo via che dobbiamo uscire dal bosco della strega. Su, andiamo!» «Ne abbiamo presa a sufficienza. Andiamo!» E dopo aver camminato un paio d'ore, giunsero ad un gran fiume. «Gretel, Gretel, come facciamo ad attraversare questo fiume? Io non vedo né ponte né passerella.» «Oh, mannaggia! Ma non c'è neanche una barchetta!» «Eh no, come facciamo?» «Aspetta, ma là nuota un'anitra bianca, giusto?» «Sì, mi sembra di sì, un'anitra bianca, sì.» «Forse se la prego ci aiuterà a passare.» Brava, chiediglielo tu che si fida, che poi tu sai cantare, ma, dai.» «Ma glielo devo chiedere io?» «E se no non possiamo attraversare il fiume.» «Va bene.» «Sta nuotando, corre via, dai.» «Anatrino! Anatrino! Corri!» «È un po' più forte.» «Siamo Hansel e Gretel. Siamo qui, ci soccorri.» «Sì, ma sta nuotando, non credo che ti senta.» «Nessun ponte passa per il fiume. Ti prego, anatrino, prendici sulle tue bianche piume.» «No, è molto bella, però io non credo che ti senta perché sta andando via, sta nuotando. Se se ne va non attraversiamo più. Ti prego, alza la voce, lasciati andare. Più forte, più forte, se ne sta andando. Dai, Gretel, dai. Ah! Anatrino, corri, corri, siamo Hansa e Gretel, ci soccorri. Decisamente meglio. Nessun ponte passa per il fiume. Ti prego, Anatrino, portaci sulle tue bianche. Anatrino, portaci sulle tue bianche. Anatrino, portaci sulle tue bianche. No, è qui sotto l'anatrino. Ah, lo spaventi, se no. Era sordo. No, non credo che fosse sordo, forse lo è diventato. L'anatrino si avvicinò, Hansel gli salì sul dorso e disse a Gretel di sederglisi accanto. Vieni, no, vieni. No, aspetta. Perché? Sarebbe troppo pesante per l'anitra. Ci trasporterà l'uno dopo l'altro. Sì, forse è meglio. E così fece la buona bestiola. E quando furono felicemente arrivati dall'altra parte, dopo un breve tratto di strada, il bosco divenne loro sempre più familiare e alla fine scorsero da lontano la casa del loro babbo. Ma Hansel, la vedi anche tu? Sì, siamo arrivati. Oddio! E allora si misero a correre, si precipitarono nella stanza e si appesero al collo del babbo. L'uomo non aveva più avuto un'ora lieta da quando aveva lasciato i bambini nel bosco, ma la vecchia matrigna era morta. Sì! La vecchia matrigna era morta! Sì! Allora Gretel rovesciò il suo grembiulino, sicché le perle e le pietre preziose saltellarono per tutta la stanza e Hansel vi aggiunse a manciate il contenuto della sua tasca. E così finirono tutti i guai e i tre vissero insieme felici e contenti. La mia fiaba ti ha detto, laggiù corre il soggetto. Prendigli il pelliccione e fatti un berrettone. Ok, Gretel, va bene? Cioè, io voglio andare a Broadway! Fine.